Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Eppur si muove, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, diciamo che pur nella stabile immobilità, oppure nell'immobile stabilità del governo, più o meno fino adesso, qualcosa si sta muovendo. Ieri avete visto, c'è stata una piccola accelerata sulla discussione della legge elettorale che è passata dal Senato alla Camera, e oggi ha annunciato lo stop al finanziamento pubblico ai partiti. Poi cercheremo di scendere nei particolari, ci faremo spiegare meglio in cosa consiste, se ci sono dietro possibili fregature, non parato, ma perché si è imparato, diciamo, nella politica italiana a essere un pochino diffidenti. E poi ci sono naturalmente i canali per le vostre opinioni, i vostri commenti. C'è sempre la pagina Facebook Effetto Notte trattino Roberta Giordano, oppure il numero per i messaggi, gli SMS al 349 238 6666. E cosa ha fatto muovere questi piccoli passi al governo? Da molte parti si parla del fenomeno ciclone, chiamatelo come volete, Renzi. È vero che poi c'è la protesta di piazza, c'è Grillo da una parte, Berlusconi che attacca dall'altra, insomma c'è molto sommovimento e ne parleremo tra poco. Come sempre però, anche in questo ultimo giorno della settimana, vi ricostruisco prima di tutto la giornata. E partiamo dai partiti. Per l'appunto, abolito il finanziamento pubblico, il Presidente del Consiglio Letta dice: ora possono decidere i cittadini. Approvato il decreto Destinazione Italia, prevede un taglio da 850 milioni alle bollette elettriche e sconti su RC Auto. Tra l'altro, anche per quanto riguarda la legge di stabilità, è stata approvata la Google Tax, cioè la Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento alla legge di stabilità che introduce in Italia prima. In Europa, cioè l'Italia è prima in tutta Europa, la Google Tax, per la quale i giganti del web dovranno avere partita IVA, o meglio dovranno pagare le tasse in Italia. Case Banca Italia dice che scende il valore delle abitazioni, è la prima volta dal 1995. Famiglia ha varato il decreto che rende i figli tutti uguali, il Consiglio dei Ministri abolisce quindi le distinzioni tra legittimi e naturali. Pompei, non finisce l'emergenza, si sgretolano stucchi antichi di una Domus. Partiamo quindi da questa legge da tanto tempo attesa, quella che appunto abolisce il finanziamento pubblico ai partiti. Il governo ha approvato oggi questa abolizione, lo aveva preannunciato già su Twitter Enrico Letta, adesso si usa così, ma Grillo insiste, è una presa in giro. Addio al finanziamento ai partiti, ma scaglionato, quello definitivo ci sarà solo dal 2017. Il governo recepisce il testo della Camera e vara un decreto che prevede la riduzione progressiva dei fondi e il contributo volontario del 2 per 1000 dell'IRPEF. Promesso mercoledì, fatto venerdì, dice Letta. Il governo oggi ha assunto un decreto legge che abolisce il finanziamento pubblico dei partiti, quindi è un sistema che dà tutto il potere ai cittadini. C'è anche l'obbligo di certificazione esterna dei bilanci dei partiti per superare l'opacità di questi anni e renderà impossibile in Italia un ritorno agli scandali degli anni scorsi. Per il ministro delle riforme Gaetano Quagliariello una è andata, adesso va fatta la riduzione del numero dei parlamentari. Insorge invece il leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, che chiede a Letta di restituire 45 milioni di euro di rimborsi elettorali. Grillo risponde al Premier anche sui forconi e sui giornalisti, mai incitato all'insubordinazione alle forze dell'ordine e mai fatto liste di proscrizione. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi c'è il decreto Destinazione Italia, che è stato approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. Tra i provvedimenti previsti in questo Destinazione Italia, l'accesso al credito, l'innovazione digitale, la ricerca, RC Auto, energia, bonifiche industriali. Previsti anche aiuti per piccole e medie imprese per incoraggiare l'acquisto di libri e migliorare la lettura tra i giovani. Approvato dal Consiglio dei Ministri di questa mattina il piano Destinazione Italia. Tanti i temi sul tavolo: ricerca, RC Auto, energia, accesso al credito, innovazione digitale e bonifiche industriali. Per le bollette energetiche è stato deciso un taglio da 850 milioni in arrivo, detrazioni fiscali del 19% sulla spesa di libri, con un tetto massimo di 2.000 euro l'anno, 1.000 euro per l'acquisto di testi di editoria scolastica universitaria e 1.000 euro per le altre pubblicazioni. Il ministro Zanonato, riguardo il provvedimento, lo ha definito un aiuto per migliorare la lettura dei giovani. Sul fronte assicurativo sono state approvate misure per ridurre il costo del premio dell'RC Auto con un meccanismo che sarà utile sia per gli utenti sia per le compagnie di assicurazione. Notizie positive anche per la ricerca. In arrivo un credito d'imposta al 50% per i nuovi investimenti in ricerca e sviluppo con un plafond da 200 milioni di euro. Promosso anche un meccanismo di garanzia per accedere ai grandi progetti di innovazione industriale e ai fondi BEI. Nel provvedimento è stata infine prevista la possibilità per le piccole e medie imprese di emettere bond per facilitare l'accesso al credito ed evitare che abbiano un unico canale di investimento, quello bancario. Leonardo Rossi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. E vi dicevo, anche è stato approvato questo decreto oggi al Consiglio dei Ministri, secondo il quale i figli sono tutti uguali, definitivamente, nessuna differenza tra chi è nato, quindi fuori e dentro il matrimonio. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di revisione, quindi, delle disposizioni vigenti in materia di filiazione. E sul governo Letta si riflette anche l'effetto della nuova guida del Partito Democratico. Nella squadra del PD di Renzi entra anche l'ex sfidante Cooper. All'assemblea di domenica Matteo Renzi arriva con un'altra vittoria in tasca, il sì dell'ex sfidante ad entrare nella squadra. Dopo una lunga riflessione, Gianni Cooper lo ha infatti accettato di diventare il presidente del nuovo Partito Democratico e la sua elezione avverrà tra due giorni sotto gli stessi riflettori della Fiera di Milano, dove il sindaco di Firenze sarà proclamato segretario. È un segnale di disgelo forte dopo le punzecchiature e le contrapposizioni del passato, questo che ha voluto dare Cooper, uno degli ex sfidanti delle primarie, il candidato tra gli altri di Massimo D'Alema. Con la carica di presidente non vuole però rinunciare al coordinamento della sua area, come ha subito specificato ai suoi sostenitori dopo aver comunicato al neo segretario la scelta. Così, all'insegna della riconciliazione, inizierà domenica l'era Renzi del PD, che incalzerà il governo ogni giorno perché le cose si facciano, torna a dire il leader del partito, che domenica a Milano confida di accogliere anche il premier Enrico Letta. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24. E a proposito di finanziamento ai partiti, appunto con lo stop che è stato annunciato oggi da Letta, vi chiedo se siete soddisfatti di questa legge, quindi attraverso i messaggi 349-238-6666 oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. E ora la protesta del Movimento dei Forconi, che non finisce oggi, la protesta del Coordinamento Nazionale 9 dicembre, di cui fanno parte le diverse realtà e associazioni legate al mondo degli autotrasportatori, agricoltori, imprenditori, abbiamo visto quante categorie. Il leader Mariano Ferro ha detto che la mobilitazione a Roma si terrà mercoledì prossimo, non un corteo ma un presidio fisso in un posto concordato con la questura. A Milano poi ancora presidi in Piazzale Loreto, presidi anche in altre regioni, soprattutto nel meridione. E oltre agli scontri di questi giorni al pericolo di infiltrazioni, si sono verificati anche dei fatti inquietanti. Due lettere anonime con minacce di morte sono arrivate alla presidente della CNA FITA, che rappresenta gli operatori del trasporto. Lei è Cinzia Franchini. Negli ultimi giorni sono state recapitate in due momenti diversi due lettere anonime con minacce di morte rivolte a me e rivolte al presidente della CNA FITA di Agrigento. Beh, sono due lettere, devo dire, brutte. La seconda, ad esempio, mi si dice che mi si riempirà di cemento, che verrò appesa a un forcone a testa in giù. Certamente come CNA FITA abbiamo in questi giorni preso delle posizioni molto chiare rispetto a quello che sta accadendo. I forconi assolutamente non ci rappresentano e non rappresentano l'autotrasporto. Di fatto l'autotrasporto in questi giorni non è sceso per strada. Lei si aspettava quantomeno una presa di posizione da parte dei leader di questi forconi? Sono ancora in attesa che arrivino, perché tutti i due volantini concludono viva la mafia, viva i forconi. Quindi io credo che chiunque in questi giorni è in piazza a protestare riconoscendosi in questo movimento dei forconi dovrebbe prendere le distanze. Insomma, una questione molto controversa. Adesso parliamo di case e del loro valore. Battuta d'arresto c'è stata decisiva per il valore delle abitazioni delle famiglie italiane. Alla fine del 2012 era calato a 4.832 miliardi di euro, meno 3,9%. Il ribasso è proseguito nei primi sei mesi anche del 2013 con un meno 1,8%. Lo afferma Banca Italia e si tratta del primo caso visibile nelle tabelle che arrivano fino al 1995. Il ministro Saccomanni, ministro dell'Economia, ha anche parlato dell'assetto proprietario di Banca Italia. Sentiamo. Nel nostro ordinamento esiste una norma mai applicata che prefigura un possibile trasferimento della proprietà del capitale della banca allo Stato. L'attuazione di tale norma avrebbe richiesto una radicale riforma dell'ordinamento dell'istituto per tutelarne l'indipendenza. Si è pertanto preferito mantenere l'assetto attuale proponendo l'abrogazione della norma in discorso. E domenica è, spostandoci all'estero, in Sudafrica, il giorno del funerale di Mandela. La salma del leader africano ha lasciato Pretoria, dovrebbe essere a Cuno, la sua città natale, dove c'è anche il nostro Lorenzo Simoncelli. Lorenzo. Sì, buonasera da Cuno, il villaggio natale di Nelson Mandela nell'Easter Cape, che ormai si sta preparando ad accogliere la salma del suo figlio prediletto. Infatti, dopo tre giorni di esposizione al palazzo presidenziale di Pretoria, dove circa 100.000 persone gli hanno reso omaggio, il corpo di Madiba domani mattina arriverà all'aeroporto di Tsata, una cittadina vicino a Cuno, con un volo militare, dove da poi inizierà una lunga processione che lo accompagnerà fino alla sua casa natale, nel rispetto della tradizione Tembu, la tribù di Nelson Mandela. Il piccolo villaggio rurale sudafricano ormai da giorni è sotto un regime di sorveglianza assoluto, con circa 12.000 militari che sono stati dispiegati tra il cielo e la terra. La popolazione sta aspettando con grande attesa il ritorno del suo figlio il prodigo per dare l'ultimo messaggio al loro grande eroe. Grazie Lorenzo Simoncelli da Cuno, dal Sudafrica. E torniamo in Italia con la cronaca, torniamo a parlare dell'operazione antimafia a Castelvetrano, nel Trapanese, che ha inferto un duro colpo al clan del boss latitante Matteo Messina Denaro. In manette, su ordine del GIP che ha accolto le richieste della procura distrettuale antimafia di Palermo, 30 persone, tra cui 5 parenti del boss latitante, imprenditori, professionisti che avrebbero favorito le imprese vicino al boss. Per gli inquirenti è stata praticamente azzerata la rete dei fiancheggiatori del boss latitante. È stato definito il nipote prediletto di Matteo Messina Denaro e di sicuro Francesco Guttadauro, figlio di Rosalia Messina Denaro e di Filippo Guttadauro, è erede di due famiglie mafiose importanti, per parte di madre legato a Matteo, per parte di padre legato ai Guttadauro, boss del quartiere palermitano di Brancaccio. L'arresto di Francesco, avvenuto nell'ambito dell'operazione Eden, potrebbe rappresentare l'esame di maturità per questo rampollo di mafia che sembra educato, come emerge dalle indagini, a esercitare il potere criminale, cresciuto e coltivato per diventare un capo capace di gestire gli interessi economici, di mediare, di imporre la volontà della famiglia. E c'è un altro aspetto che emerge dall'ordinanza che il procuratore aggiunto Teresa Principato ha definito un grande romanzo: il ruolo delle donne. C'è Patrizia Messina Denaro, che esercita il potere e pratica le estorsioni con un piglio da vero capomafia, e c'è Rosa Sant'Angelo, zia del boss, che discute di affari e soldi e si oppone agli ordini del nipote, segnale di una mafia che cambia, con il boss che appare sempre più al corto di risorse ma resta ancora molto temuto. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. E c'è purtroppo ancora da registrare un microcrollo a Pompei, una caduta di uno stucco di una domus. Il danno è sotto gli occhi del pubblico che visita gli scavi, si affaccia in una retrobottega in via di Nola. La città antica attende l'arrivo del direttore generale Giovanni Nistri, che è stato nominato in questi giorni, ex generale dei Carabinieri. Nistri è stato nominato dal governo lunedì scorso. I sindacati sollecitano le istituzioni affinché si spendano i 105 milioni di euro di fondi europei per salvare le antiche domus prive di manutenzione e per aprire i cantieri di restauro. Finora ne sono stati avviati 5 su 39. C'è anche una buona notizia per la mozzarella, bisogna dirla, è di nuovo campagna Felix, come si diceva una volta, per la mozzarella di bufala campana DOP. La specialità casearia risulta infatti a prova di test tedesco che oggi ha decretato, per voce del laboratorio TÜV di Schlegen, la completa assenza di sostanze inquinanti in 20 campioni presi casualmente in diversi punti vendita in tutto il territorio italiano. Le analisi effettuate in Germania a specialistiche particolarmente onerose sono state richieste dal Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana nell'ambito dell'operazione Trasparenza, promossa con 4 associazioni a difesa dei diritti dei consumatori per rispondere all'allarme della Terra dei Fuochi, che ha fatto tanto parlare in questi giorni e che alle imprese è costato in 2 mesi oltre 15 milioni di euro. In chiusura lo sport con il nuoto, con l'arrivo di un'altra medaglia azzurra dagli europei in vasca corta di Herning. Dopo i 3 argenti di ieri è il momento adesso di Federico Turrini, il 26enne livornese ha vinto in rimonta il bronzo nei 400 misti, il vincitore è l'israeliano Gal Nevo. Ma sentiamo Turrini. Sì, sinceramente anche ieri mi ero trovato a rifare conti con una delusione della gara di 200 che appunto mi aveva tolto un po' di sicurezza, però oggi... Stamani non ero uscito soddisfattissimo dalla gara, però oggi mi sentivo con la testa e la voglia giusta per poter fare qualcosa di buono. Sapevo che l'occasione comunque c'era, perché erano tutti avversari alla portata. È venuta fuori una bella gara, peccato che magari li ho visti poco sul finale, ho visto che rientravo forte anche sui primi, che poi non erano lontani. Ne hai visti poco, insomma, e con il nuoto chiuderei questa prima parte. Questa è quindi stata la giornata con le notizie principali. Tra poco parleremo di finanziamento pubblico ai partiti. Vi ripeto che ci sono due possibilità per interagire con la diretta: o la pagina Facebook di Effetto Notte, che è Effetto Notte trattino Roberta Giordano, oppure la pagina per i messaggi, l'SMS 349-238-6666. C'è la viabilità. E a dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco entriamo nel vivo dei temi, però come sempre dopo questa pausa vi ricordo quali sono stati, per chi avesse acceso la radio in questo momento, i fatti principali di oggi. Si parte naturalmente dai partiti e dall'abolizione del finanziamento pubblico, così ha annunciato oggi il Presidente del Consiglio Letta, dice ora possono decidere i cittadini. Approvato il decreto Destinazione Italia, prevede un taglio da 850 milioni alle bollette elettriche e sconti su RC Auto. E poi per quanto riguarda le case, Banca Italia dice scende il valore degli immobili la prima volta dal 1995. Famiglia ha varato il decreto che rende i figli tutti uguali, il Consiglio dei Ministri abolisce quindi le distinzioni tra figli legittimi e figli naturali. Pompei non finisce l'emergenza, si sgretolano ancora stucchi antichi di una domus. Parliamo quindi allora di questa notizia di oggi che ha colto un po' di sorpresa un po' tutti, forse per questa inerzia che abbastanza aveva caratterizzato in questi 8 mesi questo governo, sicuramente, e poi sulla storia del finanziamento dei partiti, governi su governi, diciamo, sono tantissimi anni che si aspetta questa legge. Cerchiamo poi di capire meglio nei dettagli, perché tra l'altro diciamo che per il momento non è immediatamente sospeso, abolito il finanziamento, parte in realtà questo stop dal 2016 e ci sarà come canale di finanziamento a questi partiti il 2 per 1000, così Letta ha detto, però ha precisato che ai cittadini è garantita l'autonomia di scelta, quindi non è che verrà per forza convogliato ai partiti, ma uno lo scriverà che vuole appunto destinarlo a delle forze politiche. Finora, fino al 2016 quindi, fino a quando non sarà abolito completamente, i partiti subiranno un taglio progressivo, quindi è progressivo questo taglio dei contributi pubblici, del 25% il primo anno successivo all'entrata in vigore del decreto, del 50% il secondo e del 70% il terzo. Cosa ne pensa professor Gianfranco Pasquino, politologo, professore allo European Studies di Bologna, Bologna e Center della John Hopkins University? Mi sono un po' impapinata perché avevo più ansia, professor Pasquino, che lei fosse interessato. Non si potesse sentire, invece c'è? Sì, io sento abbastanza bene, spero che duri. Lei si doveva mettere in viaggio proprio adesso, professore, scusi. Guardi, io volevo partire alle 18.30 e arrivare a Bologna alle 20.30. Il treno è partito 1:15 in ritardo, a questo punto ho 1:30 di ritardo. Vogliamo fare un decreto anche perché i treni... Sono contento di lei. Vogliamo fare un decreto perché i treni partano sempre in orario in Italia. Prima o poi questa cosa la dobbiamo chiedere, ma adesso accontentiamoci di questa abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. È definitiva, abbiamo detto che sarà Scaglioni, che sarà progressiva. La convince, professor Pasquino? Guardi, è naturalmente meglio di niente. Questo finanziamento pubblico statale dei partiti è stato abolito da noi, vale a dire dal 90% di coloro che sono andati a votare nel referendum del 1993. Poi progressivamente i partiti se lo sono reintrodotti a colpi davvero di milioni di euro, e a questo punto è opportuno che restituiscano il mal tolto. Non lo faranno mai, però quantomeno decresce la percentuale di soldi che lo Stato, cioè noi, diamo ai partiti, e cresce la possibilità per noi di riuscire a finanziare il partito che vorremmo, cioè di volta in volta decidiamo a quale partito intendiamo dare questo famoso 2 per 1000. Il punto fondamentale è che dobbiamo decidere quale partito e non dare il 2 per 1000 ad un fondo indistinto, e questo credo che complicherà moltissimo le cose. Dice lei, professore, che quindi non sarà diretto, voglio il partito dei Gelsomini, non andrà, ci sarà sarà un po' complicato secondo lei quindi direzionarli? Guardi, quando lei riuscirà a fare emergere il partito dei Gelsomini, io prometto che le darò il 2 per 1000. Grazie professore, ci conto. Ma temo che non sarà così facile, cioè temo che ci sia un fondo partitico per tutti i partiti dal quale poi verrà verranno dati dei soldi ai partiti con riferimento ai voti che hanno ottenuto, che almeno è un criterio decente perché vuol dire che hanno ottenuto degli elettori. Però poiché i partiti italiani turbinano con le loro sigle, nascono, muoiono e sono del Parlamento oppure no, mi pare un sistema complicato da gestire, come si dice. Ma insisto, meglio che niente, comunque meglio della situazione attuale. Certo, comunque un gran casotto. Leggo alcuni messaggi che stanno arrivando, moltissimi. Giovanni dice, certo che c'è la fregatura dietro, il 2 per 1000 sono soldi che vengono sottratti alla fiscalità generale, dice. Poi invece Maria Teresa dice un'altra presa in giro, ci prendono per scemi. E Lucio scrive, se possibile non darò un centesimo, semmai alla Chiesa, anche se non sono credente, perché se suono il campanello per un piatto di minestra non mi dicono di noi, i politici ci prendono a calci. Sente un po' il clima, professore. Senta, ma negli altri paesi come funziona? Cioè sui grandi paesi di riferimento, il finanziamento pubblico dagli Stati Uniti, che ne so, alla Germania? Guardi, tanto per cominciare va detto che un po' dappertutto i partiti ottengono soldi dallo Stato, quindi non siamo in questo caso noi l'eccezione. E però un po' dappertutto c'è un controllo davvero molto severo sulle modalità con i partiti ottengono i soldi e poi su come li usano. Il caso per esempio della Germania, il caso della Finlandia. Richiamo la Finlandia perché è stato il primo paese in Europa ad avere il finanziamento statale dei partiti. Nei paesi anglosassoni normalmente c'è una parte minima di finanziamento statale, e cioè, che sono poi rimborsi elettorali, e c'è invece una parte molto consistente attraverso la quale i partiti finanziano, spesso non i partiti, ma finanziano le campagne elettorali dei loro candidati. Questo è stato notoriamente, ma viene eccessivamente enfatizzato, il caso di Obama, che ha ottenuto un sacco di soldi attraverso finanziamenti molto piccoli, anche soltanto di 100 euro dati dai suoi sostenitori online. Questo sistema può essere adottato anche in Italia, e infatti nella legge o nel decreto ci sarà la possibilità per i privati di dare soldi ai partiti. Lo scontro era su quanti. Cioè bisogna evitare che un singolo privato possa dare troppi soldi al partito e quindi a catturarlo, per così dire. Quindi si è tenuta bassa, credo sia non più di 2.000 euro per persona che può donare al partito suo che preferisce. Sì, poi c'è anche la questione, intanto questa legge introduce l'obbligo della certificazione esterna dei bilanci dei partiti politici, quindi no, segnare un po' trasparenza, ecco, di dove vanno a finire i soldi. E poi c'è anche la questione delle detrazioni. Avevo visto anche un messaggio di un ascoltatore che pareva particolarmente informato, vediamo se lo ritrovo, che parlava anche delle detrazioni, eccolo qua forse, Giuliano dice detrazioni del 37% sino a 20.000 euro, mentre dice con una donazione ad una ONLUS, cioè un'organizzazione non governativa come Emergency e altre, posso solo detrarre il 27% e fino a 2.000 euro. Questa cosa non è un po' davvero paradossale, professore? Beh, questa però francamente mi dice nuova, perché non dovrebbe essere fino a 20.000 euro, perché c'è un limite ai singoli, e quindi non più di 2.000 euro, se non mi sbaglio, non più di 3.000 euro. E dopodiché non so qual è la percentuale che può essere tratta, però mi pare che la somma, come dire, che il tetto sia molto più basso dei 2.000 euro. Guardi, qui leggo, almeno sui testi che ho visto oggi, un privato che vorrà sostenere un partito politico godrà di una detrazione dall'imposta lorda pari al 37% per importi compresi tra 30 euro e 20.000 euro, e una detrazione più contenuta al 26% per importi tra i 20.000 e i 70.000 euro. Professore, stanno facendo spostare, ha preso il posto sbagliato in treno? Sì, non mi stanno solo facendo spostare, mi sposterò, non è un problema. Ah, va bene. Mi pare francamente eccessiva al momento che siamo in un casino di ritardo. Direi di sì, okay. Si faccia rispettare anche se adesso siamo al telefono, insomma. Professore, quindi questa storia delle detrazioni, ma lei citava gli Stati Uniti, no? Lì che Obama anche con piccole cifre da ognuno quello che ha potuto, però c'è una tradizione particolare negli Stati Uniti che non c'è in Italia da questo punto di vista, o no? Dice che si può creare? Io credo che si possa creare, sì, nel senso che una volta che si stabilisce che sono i cittadini che finanziano i partiti che preferiscono, si può anche andare in questa direzione in maniera molto chiara, molto netta, molto certificata, per così dire. Però 20.000 euro, insisto, non pare essere la cifra di cui si discute come tetto, perché mi pare molto elevata. Mm. Guardo ancora i messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Rosanna scrive: sono personalmente soddisfatta di questa legge, l'effetto Renzi comincia a vedersi. Dice, anticipo cosa dirà il rappresentante del Movimento 5 Stelle, che ci sarà più tardi: restituite quelli che avete preso, altrimenti non vale. Lei dice che barba, insomma. Riccardo, spero che d'ora in avanti la politica non sia prerogativa dei più ricchi. Inoltre non mi è chiara la percentuale di detrazione per donazioni private, eccetera eccetera. Questa è una cosa che io appunto ho dato adesso con i primi elementi che ho, ma poi nei prossimi giorni si spera sia maggiormente chiarita. Perché anche queste cifre sono ballerine, perché c'è un dibattito, qualche volta qualcuno dice uno scontro fra i partiti. I partiti di centrodestra vorrebbero cifre molto elevate e anche detrazioni, mentre mi pareva che il Partito Democratico si fosse collocato su cifre più basse, con detrazioni che siano decenti ma non eccessive. Ma senta, invece, a proposito, ecco, della paura, del timore di molti che poi possano fare politica soltanto i più ricchi, la vede come un'ipotesi fondata questa, professor Pasquino? A me pareva che i ricchi facessero già molta politica in questo paese, o mi sbaglio? Questo sì. Mi pareva che l'uomo più ricco del paese avesse fondato un partito. Ma poi ne potranno fare di più o soltanto loro? Questa è la paura di molti. No, assolutamente no. E d'altronde non è mai stato così, perché ci sono sempre stati moltissimi di noi e anche di persone, come dire, gli iscritti dei partiti. Il Partito Comunista ha avuto un sacco di iscritti che attraverso le loro cupe finanziavano buona parte dell'attività del partito, e poi hanno smesso di iscriversi, hanno smesso di pagare le quote. È chiaro che a quel punto subentrano coloro che hanno più denaro e che cercano di influenzare anche le politiche, e questo è un fenomeno. Professor Pasquino, ce l'abbiamo fatta arrivare più o meno verso la fine, perché adesso la pausa della pubblicità, non so se ci sente ancora il professor Gianfranco Pasquino, forse no, ma è arrivato giusto, meno male, almeno siamo riusciti ad arrivare fino in fondo. Lo ringrazio comunque, anche se non mi sente, speriamo che faccia un buon viaggio, magari poi lo saluterò più tardi. Ci sentiamo un momento Crozza che imita Renzi? Sì. Conversare per durare, sì. Parlare, ma anche fare. E tra dire e il fare c'è di mezzo il mare. Sì, ma bisogna amare il mare, perché se è amaro amare il mare è ancora più amare. Buttare amare la mare. Ma cosa ha detto? Scelga un colore, Un colore. Scelga un colore. Giallo. Via, giallo, giallo. Via. Giallo. La prima parola che le viene in mente. Non lo so. La prima parola che le viene in mente. Solitudine. Apro il bigliettino. Sì. Signori miei, inquadratela. Solitudine. Insomma, è sempre tremendo Crozza su Renzi. Chissà cosa pensa Renzi anche di questa invitazione. Comunque, per il momento ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi andiamo avanti su questo argomento con due politici. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Per temi di questa sera stiamo parlando in particolar modo dell'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. Ne abbiamo parlato col professore politologo Gianfranco Pasquino. Poi tra poco ci saranno due esponenti politici, ci sono i vostri messaggi al 349-238-6666 e sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ma prima vi ricordo quali sono stati i fatti principali di oggi. Innanzitutto, partendo da una notizia di pochi istanti fa, ennesima sparatoria negli Stati Uniti in un liceo del Colorado, due feriti ci sarebbero, è la Arapahoe High School, teatro dell'ennesima sparatoria in una scuola dista appena 8 miglia, pensate, circa 13 chilometri, dalla Columbine High School, rimasta, vi ricordate, tragicamente celebre per la strage del 20 aprile del 1990 con 13 morti e 24 feriti. E adesso lo sceriffo della cittadina dice che l'aggressore sarebbe ancora asserragliato dentro la scuola. E poi abbiamo parlato appunto dell'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti con Letta, che dice ora possono decidere i cittadini. È stato approvato anche il decreto Destinazione Italia, che prevede un taglio da 850 milioni alle bollette elettriche e sconti su RC Auto. Nella legge di stabilità è stata approvata anche la Google Tax, per la quale i giganti del web dovranno avere partita IVA in Italia, cioè dovranno pagare le tasse nel nostro paese. Case, Banca Italia dice che scende il valore degli immobili, ed è la prima volta dal 1995. È stato varato il decreto che riguarda la famiglia, che rende i figli tutti uguali. Il Consiglio dei Ministri abolisce infatti le distinzioni tra figli legittimi e figli naturali. E poi, con Pompei, questa emergenza che non finisce mai, si sgretolano stucchi antichi di una domus. Quindi riprendiamo allora a parlare di questa novità di oggi, che in realtà era attesa da anni. Ne abbiamo parlato prima con un politologo. Adesso parliamo con i diretti interessati, quindi degli esponenti politici, che sono Antonio Misiani. Buonasera Misiani. Buonasera a tutti. Deputato PD e tesoriere uscente del Partito Democratico. C'è Riccardo Nuti. Buonasera a lei, Nuti. Buonasera. Deputato o portavoce o cittadino del Movimento 5 Stelle. Alla fine come preferite essere chiamati, Nuti? Va bene cittadino, come ce l'hai, non è un problema. Va bene cittadino, se no la chiamo semplicemente Nuti. Allora, partirei da Antonio Misiani, che oggi mi pare abbia twittato, siccome ieri o l'altro ieri Renzi aveva detto a Grillo: attento che ti aspetto con una sorpresina, e probabilmente si riferiva a qualcosa che vuole annunciare dopodomani, domenica, a Milano, dove c'è l'Assemblea Nazionale del PD e dove lui verrà proclamato ufficialmente segretario del PD. Lei ha detto, dice il saggio, chi vuole sorprendere con le sorpresine rimane sorpreso da una sorpresona. È quella che gli ha fatto letta oggi Misiani a Renzi? È un'espressione scherzosa, certo. Letta ha fatto quello che doveva fare, un decreto che riprende il testo già approvato dalla Camera dei Deputati e lo fa diventare immediatamente operativo, poi il Parlamento avrà 60 giorni per convertirlo in legge, ma da oggi abbiamo una riforma che cambia radicalmente il modo in cui i partiti si finanzieranno, mettendo al centro il cittadino, che potrà scegliere se destinare o meno il 2 per 1000 dell'IRPEF al proprio partito e se fare o meno delle donazioni private che andranno ad alimentare i bilanci dei partiti, mentre il meccanismo attuale, basato su rimborsi elettorali e cofinanziamento pubblico, verrà completamente azzerato con un breve periodo di transizione. Insomma. Cioè, fino al 2016 resterà comunque, no? Con delle riduzioni man mano progressive. Sì, c'è un taglio progressivo del 25% il primo anno, 50% il secondo, 75% il terzo. E poi l'azzeramento totale dal 2017, analogamente a come hanno fatto altri paesi, penso al Canada, che hanno deciso di abolire il finanziamento pubblico diretto ai partiti. Misiani, però questa cosa che non c'era molto chiara prima anche col professor Pasquino, alla fine avete deciso qual è il tetto massimo di una somma che può versare un privato ai partiti? 300.000 euro a regime, ecco. Per le persone fisiche e 200.000 euro per le persone giuridiche. È un punto su cui abbiamo molto insistito come Partito Democratico, perché è chiaro che un sistema basato completamente sull'autofinanziamento, sulle donazioni private, non può non prevedere un tetto massimo per evitare ai partiti di essere condizionati dai grandi potentati economici. Ma secondo lei una spinterella a questa accelerazione l'ha data Renzi, più o meno direttamente e indirettamente, o no? Ma guardi, non so se l'abbia data o meno Renzi, temo che l'abbia data il lungo tempo, probabilmente eccessivo, no, che il Parlamento ha impiegato per discutere questo progetto di legge. Poi è chiaro che c'è di mezzo la legge di stabilità, provvedimenti importanti che per esempio hanno bloccato la discussione in Senato, però slittare al 2014 avrebbe fatto saltare di un anno l'applicazione di elementi fondamentali della riforma, e penso che sia questa la considerazione che abbia spinto il Presidente Letta a varare un decreto oggi. C'è Domenico che scrive sulla pagina Facebook: inizierò a crederci solo quando lo vedrò nei fatti, molti sono magari un po' diffidenti. E Tullio scrive: ora i disoccupati, i poveri senza tetto potranno finanziare il loro partito, il finanziamento andava seriamente regolamentato e controllato, non abolito, ammesso che si tratti di vera abolizione, dato che in teoria è già stato abolito 20 anni fa. Che risponde a queste diffidenze Antonio Misiani? Ma rispondo che le regole che oggi governano l'uso delle risorse da parte dei partiti sono molto ma molto più severe di quelle che erano previste fino a poco tempo fa. La legge 96 del 2012 ha introdotto la certificazione esterna da parte di società indipendenti, un organismo pubblico indipendente di controllo completamente sganciato dai partiti, le donazioni pubbliche con nome e cognome sopra 5.000 euro, mentre prima la soglia era molto più alta, una serie di regole che rendono la normativa italiana tra le più severe in Europa. Poi è chiaro che si può sempre migliorare, però abbiamo fatto da questo punto di vista un salto in avanti importante. La legge, che il decreto legge che oggi il governo ha varato, cambia alla radice il meccanismo con cui i partiti si finanziano, cosa che non era stata fatta se non in parte con la legge del 2012, che aveva dimezzato l'ammontare delle risorse pubbliche ma non aveva radicalmente cambiato il meccanismo. Il vero elemento di novità è che oggi decideranno i cittadini rimarranno delle risorse pubbliche potenzialmente destinate al finanziamento della politica, però saranno i cittadini a scegliere se vogliono destinare il 2 per mille della loro IRPEF al loro partito. Lo possono fare mettendo una croce sul loro partito, se decideranno di non farlo ai partiti non arriverà un euro, e questo naturalmente costringerà i partiti a cambiare il loro modo di essere, a recuperare consenso. Un rapporto molto più forte con i cittadini, con il territorio. Allora, bisognerà cambiare pelle. Allora, visto che abbiamo nominato molto i cittadini, chiedo al cittadino Riccardo Nuti, come mai invece Grillo ha detto basta con le chiacchiere, restituisce ora i 45 milioni di euro di rimborsi e dice, senza giri di parole, il decreto legge di Letta è l'ennesima presa per il culo. Come mai Nuti? Basta leggere il contenuto. Intanto è il testo della legge truffa che è uscita alla Camera, come è stato poc'anzi detto. E quel testo, in pratica, è giusto che si sappia che per i prossimi 3 anni i partiti continueranno a prendere i finanziamenti. E questo si è detto, sì. Quindi non c'è nessuna abolizione. Detto ciò, poi, non ci sono sanzioni serie, perché le sanzioni sono abbastanza blande, riguardano solamente il 2 per mille e non le donazioni liberali che fanno i cittadini. E inoltre, nelle donazioni che sono state fatte, che sono state introdotte, ci sono due cose abbastanza gravi. La prima è che ci sono delle detrazioni molto più alte per i partiti rispetto a una onlus. E la seconda è che ci sono dei tetti, quello di 300.000 euro all'anno, che sono praticamente esorbitanti, perché permettono ai partiti di essere in mano alle lobby, o meglio, alle lobby di finanziare i partiti in maniera spregiudicata. E quindi condizionando. La proposta era di mettere un tetto massimo di 5.000 euro lordi. Ma siccome il PD doveva accontentare la richiesta di del PDL allora di non avere nessun tetto, hanno trovato un tetto che praticamente permette alle lobby di gestire i partiti. E inoltre, e infine, c'è da dire che con questa legge, basta appunto conoscere il contenuto, si vanno a finanziare anche le scuole di formazione dei partiti. Allora capisce bene che tutto si può parlare tranne che di abolizione del finanziamento pubblico. Inoltre, siccome nell'intervista di poc'anzi, ma anche Letta, ha detto si rimettono al centro i cittadini, ma è un'altra clamorosa presa in giro. Intanto perché il 31 maggio aveva detto abolizione del finanziamento pubblico e il 13 dicembre ripete la stessa cosa. Ripeto, ormai Letta si è incantato sulle stesse parole, quindi è come se ha confermato che il 31 maggio aveva mentito. E poi c'è da dire anche l'altro aspetto, che in pratica questo volontà di mettere i cittadini al centro non viene rispettata, perché i cittadini sono già espressi nel 93. Se dal 93 a ora, con il referendum che li aboliva, i partiti hanno continuato a prendere varie centinaia di milioni di euro, superando anche il miliardo di euro, c'è poco da dire che hanno messo al centro i cittadini. Però ci hanno provato adesso, diciamo, ci hanno provato adesso Nuti. Però Misiani, rispondi allora a questa cosa, per favore, per esempio delle detrazioni, che effettivamente è un aspetto un po' paradossale. Perché ci sono maggiori detrazioni dando i soldi al partito che ha una organizzazione senza scopo di lucro? Il sistema delle detrazioni per i partiti ha una logica precisa: incentivare le piccole donazioni con un forte incentivo fiscale che permette ai partiti un autofinanziamento diffuso, esattamente con l'obiettivo che ricordava prima il cittadino Nuti, cioè evitare che i partiti debbano andare col cappello in mano dai grandi poteri economici. E sul tetto? Per far questo, il tetto è una cosa su cui noi ci siamo molto battuti. Io credo che si possa abbassare, credo che per esempio una discussione parlamentare possa contribuire ulteriormente ad abbassarlo. Era frutto di un compromesso faticosamente raggiunto con il PDL, si può sicuramente migliorare, perché noi condividiamo l'obiettivo di una politica libera il più possibile dai condizionamenti privati. Ecco, vorrei ricordare peraltro che le risorse per le detrazioni, per le donazioni e le detrazioni per chi decide di frequentare una scuola di formazione politica vanno ai cittadini, non vanno ai partiti, sono i cittadini che fanno una donazione, possono scaricare dalle loro tasse una certa percentuale, sia che donino ai partiti, sia che si iscrivano ad una scuola di formazione politica. Misiani, mi dica solo una cosa, ho sentito una cattiveria terrificante sul PD, ho sentito che il PD ha accettato di dilazionare l'abolizione, insomma, di rimandarla al 2016 completamente, perché il PD sarebbe pieno di debiti. Mi dica sinteticamente sì o no, se è vero. No, il PD non ha debiti con le banche, non ha patrimonio immobiliare, basta leggere i nostri bilanci che sono certificati e pubblicati online. C'è invece il tema di una fuoriuscita graduale dall'attuale sistema, che è stata prevista in altri paesi in cui si è deciso di seguire questa strada. Prima citavo il Canada, è un modello interessante perché ha deciso di abolire il finanziamento pubblico diretto, appunto con 3 anni di transizione per fuoriuscire dal sistema, e in Canada è prevista una detrazione del 75% e magari sulle donazioni ai partiti fino a $500, quindi è un sistema in cui si incentiva fortissimamente la donazione spontanea. Chiaro. Voglio chiedere solo una cosa, Nuti, che abbiamo ancora pochissimo tempo, Nuti, se riesce a rispondermi proprio, poi ci ritorniamo magari prossimamente. Questa polemica con Faraone della segreteria del PD, che lei ha detto che frequentava mafiosi, allora lui le ha detto liberati dell'immunità, così ce la vediamo fuori, insomma, tra giudici, tribunali, eccetera, eccetera. Come è finita? Perché poi Faraone se l'era presa, perché lei ha pubblicato effettivamente il suo indirizzo di casa su online, no? Sì, sinteticamente. La domanda. Intanto una breve precisazione. Sì, proprio sintetico, Nuti, mi perdoni che abbiamo poco tempo. È vero, in altri paesi è graduale, ma in altri paesi rispetto al referendum. È accaduto 20 anni fa il referendum in Italia e per 20 anni è stato disatteso. Vabbè, detto ciò, poi su quanto riguarda Faraone, io ho semplicemente ricordato quanto accaduto nel 2009, quanto confermato da lui stesso nel 2009, cioè che è andato a casa di Agostino Pizzuto insieme ad altri per sostegno elettorale. Quindi lei rinuncia all'immunità in caso, per chiarirvi, fuori dalle io protezioni? Io ho fatto un comunicato stampa dove ho detto che rinuncio all'immunità se lui ovviamente mi l'ampia facoltà di prova, quella che è prevista al codice penale. Benissimo. Cioè poter dimostrare che quello che ho detto è vero. Bene, io vi saluto perché il tempo scade e ringrazio molto sia Riccardo Nuti, Movimento 5 Stelle, Antonio Misiani del PD. Grazie a voi, buona continuazione e buon lavoro. Abbiamo la viabilità, tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Vi dicevo nei titoli che Banca Italia ha, in questo studio ha detto che cala il valore delle case in Italia, proprio il mattone, no? L'unica certezza, sicurezza degli italiani alla fine per gli investimenti, lunga tradizione questa della casa di proprietà, del mattone. Anche questa certezza sfuma, non ci sono più le mezze stagioni. Luca Dondi, buonasera, direttore generale di Nomisma. Luca, buonasera. Allora è così effettivamente? Cioè anche le case cominciano a perdere, al di là che il mercato immobiliare, sappiamo che è immobile da un po' di tempo, da quando c'è la crisi, ma cala il valore delle case quindi? Sì, cala, e non è un fenomeno così recente, che noi abbiamo registrato evidenziano già da qualche anno una tendenza ribassista dei prezzi che si è accentuata nel corso dell'ultimo anno, raggiungendo punte del 5-6% rispetto all'anno precedente, che rappresenta un'intensità di calo decisamente superiore a quella degli anni precedenti. Ma secondo te come hanno potuto fare questo studio da Banca Italia, da cosa lo ha dedotto, insomma, che sta diminuendo così, o anche voi di Nomisma? Ma lo si evince dalle transazioni, quindi dai prezzi medi che vengono praticati nel corso delle transazioni, che si sono drasticamente ridotte rispetto ai livelli di picco. Erano circa 860.000 nel 2006, saranno intorno alle 400.000 alla fine di quest'anno, e in queste transazioni c'è un livello medio dei prezzi che è inferiore rispetto a quello del 2007-2008 di almeno il 18-20% a livello italiano, e con punte addirittura superiori in termini di calo in alcune aree urbane. A questo punto qualcuno si chiede, ma mi conviene davvero acquistare casa, caricarmi di un mutuo, o forse conviene più l'affitto in questo momento? Si può dire cos'è più conveniente? Non si è ancora esaurito del tutto la spinta recessiva. Io credo che ci sarà ancora una fase di assestamento dal punto di vista dei prezzi, mentre dal punto di vista delle compravendite c'è già un segnale di stabilizzazione negli ultimi mesi, quindi il prossimo dovrebbe essere un anno di timida ripresa rispetto al livello delle 400.000 compravendite di quest'anno. Dal punto di vista dei prezzi c'è ancora l'attesa di un'ulteriore riduzione, potrebbe essere venuto il momento di cominciare a selezionare nell'ottica di acquistare o di rientrare anche come investimento una volta chiarito anche il quadro fiscale, per cui in un quadro ancora negativo ci sono timidi segnali di miglioramento all'orizzonte. Quindi proprio in una parola, se uno volesse investire nel mattone, tutto sommato vale ancora la pena di farlo? Ma non nel brevissimo termine, con una prospettiva di rivalutazione in un orizzonte lungo e avendo in testa un guadagno che non è quello dei primi anni 2000. Siamo stati abituati a incrementi dei prezzi all'ordine del 10% anno, ecco, quelle percentuali dobbiamo dimenticarle, ecco, riavvicinandoci all'immobiliare come investimento. Grazie Luca Dondi. Grazie a voi, buona serata. Grazie, buona serata. E adesso in chiusura, cioè, facciamo previsioni di altro tipo. Come sarà il tempo domani, dopodomani e possibilmente anche nei prossimi giorni? Ce lo dice il colonnello Mario Giuliacci. Colonnello, benvenuto. Buonasera Roberta, eccomi qui, sarà rapido e diciamo indolore. Sarà un fine settimana come al solito con il bel tempo, nel senso che non ci saranno piogge, ci sarà l'alta pressione, ma attenzione ancora, ci saranno nebbie, nebbie soprattutto domani sulle Venezie, sull'Emilia Romagna, sull'est della Lombardia, un po' meno sulle regioni di nord-ovest. Domani mattina le gelate, soprattutto sulle regioni di nord-ovest, mentre domenica ancora la stessa musica, la pressione, ancora le nebbie, soprattutto sulle Venezie e dell'est della Lombardia, ancora le gelate sulle regioni di nord-ovest. E poi da lunedì a mercoledì resiste ancora l'alta pressione, quindi ci dobbiamo sorbire ancora tutti questi giorni al nord, nelle valli del centro delle nebbie, ma poi giovedì finalmente arriva una perturbazione, arrivano le piogge e le nebbie saranno dissolte. Scegliete voi se preferite appunto meglio le nebbie o le piogge. Dicevo, che bellezza, finisce la nebbia, arriva la pioggia, non so se sa cosa scegliere, forse è meno pericolosa, ma insomma certo, dipende da quanta ne cade naturalmente. Grazie carissimo colonnello, www.meteogiuliacci.it per le altre, gli altri approfondimenti sul meteo. A questo punto noi ci dobbiamo lasciare, ma come sempre poi ritorno per ricordarvi i fatti principali.